Bentornati a Rock Legends su Radio RCS, l'onda veronese. Le frequenze le facciamo dire come tradizione ai nostri ospiti, Dials of a Hero. Allora, sono 98.6 per la bassa veronese zona della Lessinia e 101.5 per Verona città e rimanente provincia, 91.5 per la zona Lago di Garda e 94.9 per la Val d'Adige. Poi? Ah, sì, poi Radio RCS si può anche ascoltare attraverso lo streaming dal sito internet www.radiorcs.it. Dall'hard rock degli anni 70, sponda inglese, passiamo alla new wave of British heavy metal degli anni 80 con altri nomi importanti della scena musicale di quell'epoca. La prima canzone era Streets of Gold del 1980, dal disco di esordio di Damon Head, Lightning to the Nations. Formazione sfortunata che ha avuto una grande citazione di riflesso grazie a Metallica, loro stimatori da sempre. Cosa ne pensate? Beh, io i Damon Head, sarà che sono dell'84, però io sono cresciuto soprattutto con i Metallica, quindi li ho conosciuti attraverso i Metallica, come molti miei amici, anche ragazzi della mia età. E infatti soprattutto quando avevo comprato il disco di Metallica, quello Garage Inc, che ci sono un paio di canzoni loro, forse anche di più, io mi ricordavo It's Electric e Am I Evil, certo, che avevano fatto. Poi le vedevo anche perché le facevano durante dei live che avevo comprato in VHS ancora all'epoca. E, bellissimi secondo me. Infatti io poi sono andato ad ascoltare delle registrazioni loro. In realtà mi piacevano meno perché il suono al quale ero abituato era molto più potente, molto, esatto, più pesante, infatti. Quindi era difficile farmi le orecchie per i Damon Head, che invece avevano delle sonorità poi un po' più vecchie, anni, diciamo. 80, anni insomma, 80, esatto. Però insomma sempre bravi. Poi mi hai detto prima fuori onda, mi dicevi che cos'è che era successo con i Big Four, che è una cosa che sì, che Brian Tetler era stato ospite dai Big Four, insomma, ecco, fantastico. Quindi, sì, grande, sì, tributo a un chitarrista, sì, e membro di questa band, che loro li amavano a sto, certamente, punto. Infatti io avrei una domanda da farti, Jean-Luc. Cosa ne pensi di Canterbury? Perché è stato bocciato da tutti, è il mio preferito. Eppure tanti dicono che è un grande disco. Forse perché è stato un esperimento dei Damon Head un po' diverso rispetto a quello che era il New Wave of British Heavy Metal. Insomma, ecco. Mi ha fatto impazzire quel disco. È possibile, perché è molto più raffinato, diciamo. C'è un lavoro dietro, insomma, anche da parte dei Damon Head. Comunque, dicevamo, Behind the Mask è il titolo del vostro disco. Qual è il significato che sta dietro questa frase? Ma dunque, non bisogna guardarci troppo, troppo dentro col microscopio. In realtà la canzone, cioè il titolo dell'album deriva dalla canzone, perché ci sembrava che avesse... Suonava bene, ecco. Sì, suonava bene. No, più che altro perché il titolo della canzone era stata scritta prima che venisse in mente il titolo del disco. Il gruppo si chiamava Diaries of a Hero, sì. Allora abbiamo deciso di chiamare il disco Behind the Mask, che aveva più senso, sai, diari, you know, eroe, maschera. Ancora musica, stavolta passiamo alla Girls' School, la band di Kim McAuliffe e Danny Williams, esce nel 1981 con il secondo disco Hit and Run, da cui ascoltiamo la canzone Come On, Let's Go. La New Wave of British Heavy Metal ha dato la possibilità a gruppi femminili di emergere in un genere a maggioranza maschile, vedendo poi nelle Girls' School le loro esponenti più longeve, tanto che la band è ancora attiva. Che ne pensate? Le Girls' School, pensa che l'unico pezzo che io conosco delle Girls' School, che si chiama Yeah Right, l'avevo comprato in un cofanetto allo Shan tipo 10 anni fa, e sto cofanetto era di 5 CD, chiamato Monsters of Rock, e lo vendevano al chilo. Ti rendi conto? Addirittura. Per dire l'importanza che stanno dando adesso. Comunque no, fantastiche. Mi piacerebbe vederne di più di gruppi al femminile, non solo perché vogliamo vedere delle belle ragazze sul palco, non so perché, ma è proprio perché forse sarebbe anche ora di uscire da questo cliché del guys club, no? Lui che la Get Rocked con cui siamo curava la promozione anche le Crucified Barbara. Certamente. Quindi, e cura ancora tuttora. E cura tuttora, sì, sì. Non lo sapevo, anzi. Però, quindi magari riusciamo a suonare con loro prima o poi. Sarebbe una bella cosa, insomma, anche perché sono molto brave. Sì. Molto, molto. Abbiamo suonato con le Cellulite Star a Padova. Che sono state ospiti anche loro. Ah, sì? Sì, certo. Fantastiche. Anzi, mi ricordano un po' le Girls' School. Sì? Siamo lì, possibile, un pochino. Dunque, dicevamo, vostri ascolti musicali, quali sono e quanto influenzano la composizione delle vostre canzoni? Allora, io sono molto più legato al metal anni 80, forse il mio disco preferito in assoluto è Operation Mindcrime dei Queensryche, poi Judas Priest, Saxon, Maiden, invece gli altri sono più... Beh, io sono un po' chi... anch'io sono legato un po' come Matteo, nel senso che siamo molto coetanei, quindi anche a me piacciono. Beh, io sono stato molto su, diciamo, fondamentalmente, non so, mi divido a un certo punto, perché mi sono fatto i Gods of Metal di tutti gli anni, dal 99, però poi a un certo punto ho cambiato, mi sono messo a ascoltare più cose tipo Lamb of God o i Devil Driver, John, you as well, una roba del genere. What bands that influenced you, for instance, like Pantera or something? Yeah, main band is Pantera. I do like a bit of Zakk Wylde as well. He does hit the spot, like. Sì, come chitarra sentirei molto, perché anch'io ascolto molto Zakk Wylde, quindi Zakk Wylde, Pantera, Black Label Society. Sì, però anche molto sul death. Siamo anche sul death, molto death americano. Chitarristica. Poi infatti, se ascolti il disco nostro, più o meno c'è un po' di tutto. Non so, se senti Zakk Wylde che mi è mischiato con i Devil Driver. È una cosa un po' strana, però divertente. Molto melodico. Chiudiamo allora la seconda parte con i Tigers of Pentang, formazione inglese guidata ancora oggi dall'unico membro superstite, il chitarrista Rob Weir, e che ha visto nelle sue file anche il più noto chitarrista John Sykes, dal loro masterpiece Spellbound del 1981 con Minotaur. Nella terza e quarta parte ascolteremo sei brani del disco dei Diaries of a Hero, Behind the Mask. Stay tuned. We'll be right back.